Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Partito Democratico è polemica tra Bersani e Prodi. Oggi a Favara i funerali in forma privata di Marianna e Chiara. Ad Haiti servono 200.000 tende per gli sfollati. La Francia verso il divieto del burka nei luoghi pubblici. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. In primo piano una ricca pagina politica, perché dopo la sconfitta del candidato del PD Boccia alle primarie della Puglia, il segretario Bersani sembra rilanciare le alleanze per le regionali. E così Alessandra Schepisi. Sì, è così, è ritrovata la sintonia tra il leader dell'Italia dei Valori e il segretario del Partito Democratico, che ripristinano la loro alleanza in vista delle regionali. C'è un'intesa in 11 delle 13 regioni in cui si voterà, spiegano in una conferenza stampa congiunta, mentre su Campania e Calabria si sta ancora lavorando con la volontà di raggiungere un accordo. Un'alleanza, spiega Bersani, che vuole essere solo un punto di partenza per costruire un'alternativa di governo. Sentiamolo. Noi dobbiamo renderci disponibili a creare convergenze, non di nomenclatura, non di politica politicante, ma convergenze di alternativa a una situazione. E quindi io credo che questo tema vada assolutamente tenuto fermo, e lo terremo fermo. Lavoriamo per l'oggi e per il domani, gli fa eco Di Pietro, perché non possiamo lasciare il paese ad un governo che toglie agli onesti per dare ai disonesti. Ma sentiamo la sua voce. Se non dovessimo trovare un punto d'incontro sul programma e su una alleanza strategica di alternativa, questo paese come si libera di questa cappa, di questo regime che fa credere ai cittadini che tutto va bene, invece va bene soltanto per qualche evasore fiscale, a cominciare dal Presidente del Consiglio? Bersani è poi intervenuto sulle dimissioni di Del Bono, un gesto veramente apprezzabile, poi ha risposto a Prodi, che su Repubblica aveva avanzato dubbi sulla sua capacità di guidare il partito. Per lui, ha detto il segretario, ho un affetto e un rispetto inattaccabili, ma sono critiche che non condivido. E da Montecitorio è tutto, a voi la linea. Intanto vediamo cosa accade sul fronte delle trattative tra l'UDC di Casini e il centrodestra per le regionali. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il centrodestra mostra tranquillità nella corsa per le regionali. Il consenso che sta riscuotendo il governo Berlusconi e le personalità scelte nelle varie realtà locali, spiegano, nella maggioranza fanno guardare con serenità al prossimo appuntamento elettorale. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, però, quello che fa discutere il centrodestra è il tema delle alleanze, il ruolo giocato in queste dall'UDC. Sono stati commissionati nelle ultime ore già diversi sondaggi per valutare quanto peserà nelle scelte degli elettori la decisione di Casini di correre da solo in Puglia. I centristi potrebbero essere infatti una spina nel fianco nelle regioni considerate più a rischio. Nel caso della Puglia, ad esempio, nella maggioranza si dava per scontato che dopo la vittoria di Vendola vi sarebbe stato automaticamente l'appoggio dell'UDC al proprio candidato. I più vicini a Berlusconi darebbero un premier molto irritato per tutta la vicenda ed anche per la scelta della stessa Poli Bortone. A lei aveva pensato già il Cavaliere, i colonnelli del PDL lo avrebbero poi dirottato su Rocco Palese. Altro capitolo, il caso Bologna. Le dimissioni di Del Bono aprono nuovi scenari in una città che vede il popolo della libertà diviso tra finiani e berlusconiani. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Ma quali sono le partite aperte per le regionali, le alleanze che si aprono e si chiudono? Qual è lo scenario? Lo chiediamo a Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Le regionali saranno un vero e proprio test per entrambi gli schieramenti. Scusate, ma ci sono problemi alla regia? Pronto? Nessun problema, ci sentiamo benissimo. Allora, le regionali saranno un vero e proprio test per entrambi gli schieramenti, un test con in mezzo l'UDC e la politica delle alleanze variabili. Situazione ormai chiara in Puglia dopo la vittoria di Nichi Vendola. Nel centro-sinistra l'UDC corre da solo con la Poli Bertone, il PDL sceglie un candidato a ribasso, Rocco Palese. Ancora invece difficile per il segretario PD Pierluigi Bersani la scelta in Umbria, dove la minoranza, dopo il caso Puglia, vorrebbe imporre un proprio candidato. Pesano però anche le critiche dell'ex premier Romano Prodi, che chiede una direzione chiara nel Partito Democratico, e sono sempre più probabili le primarie in Campania e Calabria per trovare i sostituti di Loyer e Bassolino. Nel PDL invece permangono aperte le candidature in Toscana dopo il ritiro del deputato Riccardo Migliori e in Basilicata, mentre il caso è risolto in Campania con Caldoro, ex ministro socialista. Ma problemi ci sono anche in Veneto, dove corre il ministro dell'agricoltura Luca Zaia, che assicura non farò liste di proscrizione, smentendo così una possibile resa dei conti per quanti nel PDL non l'appoggeranno. E per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Come avete sentito dunque, il peso molto forte delle elezioni regionali è questo, diciamo, il punto centrale dello scontro politico, ma anche le dimissioni di Del Bono dal sindaco di Bologna, che sono state al centro del nostro sondaggio. Il passo indietro del sindaco di Bologna, Flavio Del Bono, è stato accolto con un plebiscito dai nostri ascoltatori. Nel sondaggio di oggi l'89% di voi dice ha fatto bene a dimettersi. Il Cinzia Gate, una serie di vacanze e weekend passati con la ex compagna nonché segretaria, ancor prima di diventare una questione giudiziaria, e questo si vedrà, è evidentemente una questione etica per i nostri ascoltatori. La pensa così anche l'ex sindaco di Bologna, Giorgio Guazzaloca, alla cui porta andò a bussare Cinzia Cracchi, la donna che ha portato alla luce la vicenda, ma che fu respinta. Liquidai tutto dicendo: se sono questioni di rilevanza penale vada dal magistrato, se sono questioni sentimentali vada da un prete, e l'ho chiusa lì. Ma mi pare che queste accuse, fra virgolette, oggi trovino, perlomeno in questa fase, un parziale riscontro dalla magistratura, se è vero che non si tratta di gossip, come diceva all'inizio il sindaco, ma ci sono già tanti capi di imputazione, tutti i giorni ne suonano uno. Bianconero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Dei malesseri all'interno del Partito Democratico in Puglia e a Bologna parleremo con Alessio Maurizi tra poco alle 13.30 in Italia in Controluce, la nuova trasmissione, nuovo approfondimento del GR di Radio 24 dedicato alla cronaca locale e la cronaca nazionale. Entra nel DL mille proroghe il decreto sul rinvio il 2011 del taglio delle poltrone per comuni e province varato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre scorso. L'intero testo del decreto Calderoli, così viene chiamato, è contenuto in un emendamento del relatore Lucio Malan del PDL al mille proroghe, in discussione in queste ore in Commissione Affari Costituzionali al Senato. La proposta di modifica contiene anche delle novità su Roma. Questo testo dell'emendamento prevede dunque lo slittamento al 2011 della riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali, così come il tetto ai compensi dei consiglieri regionali, che non dovranno più avere stipendi d'oro, quantomeno non superiori a quello di un parlamentare. La cronaca è folla a Favara, i funerali delle sorelline morte sabato nel crollo della loro casa. Centinaia le persone che nella chiesa madre di Favara hanno voluto rendere l'ultimo saluto a Marianna e Chiara, le sorelline di 14 e 3 anni morte sabato nel crollo della palazzina fatiscente dove vivevano con i genitori e il fratellino di 12 anni rimasti feriti. A celebrare i funerali in forma privata Don Mimmo Zambito e non l'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, che come annunciato si è seduto in mezzo alla gente. Non celebrerò più funerali per vittime di disastri annunciati, aveva dichiarato all'indomani della frana di Giampilieri, e così ha fatto. Oggi a Favara è lutto cittadino proclamato dal sindaco Domenico Russello, che ora si difende dalle accuse di chi lo indica come uno dei responsabili della tragedia. Sono sindaco da solo 2 anni e mezzo, ho fatto quello che dovevo fare, ho la coscienza pulita, ha detto entrando in chiesa dopo aver confermato che la famiglia delle piccole aveva presentato istanza per avere una casa popolare. Il nome del sindaco, dicono le indiscrezioni, verrà presto iscritto nel registro degli indagati insieme a quello di tecnici e funzionari del comune di Favara e, ovviamente, a quello del proprietario dell'immobile. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. La giudiziaria, ci sono novità sull'ultima inchiesta dei magistrati milanesi che riguarda i diritti TV e che coinvolge il premier Silvio Berlusconi. In studio Raffaella Calandra. Franca Grama lo aveva detto lui stesso: io posso fare quello che voglio. Del mediatore cinematografico americano parla e a lungo Roberto Pace, già amministratore delegato di Mediatrade, la società che ora dà il nome all'ultima inchiesta per appropriazione indebita a carico di Silvio Berlusconi e altri 11 indagati. Fu durante un incontro soprattutto con alcuni manager Fininvest che l'americano avrebbe fatto capire di essere un intoccabile. Intoccabile perché, secondo l'accusa, socio occulto del capo di Silvio Berlusconi nella creazione dei presunti fondi neri. Per questo intorno ad Agrama si sarebbe creata una zona franca, ricostruisce Pace, che lo avrebbe tenuto fuori dalla riorganizzazione per tagliare i costi, affidata all'allora amministratore di Mediatrade. La nuova strategia prevedeva di chiudere le società offshore e non comprare più attraverso mediatori, spiega nei verbali lo stesso Pace. Ma Agrama continuò ad essere l'anello di congiunzione tra il gruppo del Biscione e le major americane, ed è con questo meccanismo che, secondo la Procura di Milano, sarebbero stati drenati soldi alle imprese verso l'estero. Nelle 50.000 carte depositate, adesso che l'inchiesta è stata chiusa, anche i dettagli sui conti svizzeri, dove tra l'altro furono sequestrati 100 milioni ad Agrama, mentre nulla è arrivato dalla richiesta di rogatoria inviata ad Hong Kong e agli Stati Uniti. Sul fronte della frode fiscale, centrale per i PM De Pasquale e Spadaro è l'ultima relazione depositata dalla KPMG. Sappiamo che in questi 20 giorni il Premier non si farà interrogare, come pur sarebbe nelle sue possibilità, e così faranno, o meglio non faranno, molti degli altri, tutti gli altri 12 indagati. Per questo è presumibile immaginare che già nel giro di una ventina di giorni i PM potrebbero depositare la richiesta di rinvio a giudizio. E per ora è tutto. Grazie dunque per questi particolari che riguardano l'inchiesta che coinvolge il premier Silvio Berlusconi. Battuta d'arresto a gennaio per la fiducia dei consumatori, lo dice l'ISAE nella consueta inchiesta mensile. L'indice torna dopo 3 rialzi consecutivi sui valori dello scorso ottobre, rimanendo tuttavia sui livelli ben superiori a quelli medi dello scorso anno. Sono le 13:16, torna il racconto delle notizie principali su Radio 24. Nella prima parte abbiamo parlato molto di politica, della polemica tra Bersani e Prodi, del fatto che Bersani ha rilanciato l'alleanza con Di Pietro in 11 regioni, delle trattative tra il centrodestra e l'UDC di Casini. Poi abbiamo fatto il punto sia sui funerali a Favara delle sorelline morte sabato nel crollo della loro casa, e sia dell'ultima inchiesta dei magistrati milanesi che riguarda, quantomeno coinvolge, il premier Silvio Berlusconi. Questa invece è una pagina internazionale che apre la seconda parte del nostro radiogiornale. Servono al più presto 200.000 tende per ospitare il milione di persone sfollate dal terremoto che ha colpito Haiti il 12 gennaio scorso. Per ora solo una frazione delle tende richieste sono nel paese oppure in arrivo. Almeno così dicono le Nazioni Unite nell'ultimo rapporto sulla situazione dell'isola. Il bisogno di tende è particolarmente urgente in vista dell'arrivo della stagione delle piogge, che ha inizio in aprile. Necessari decine di milioni di pasti pronti, migliaia di persone che hanno dovuto subire amputazioni, che hanno bisogno di seguire terapie, sempre secondo quanto stabilisce l'ONU. Intanto prosegue la polemica tra il capo della Protezione Civile Bertolaso e gli Stati Uniti, che ha tenuto banco ieri nel vertice tra Frattini e Clinton a Washington. Sergio Nava ha chiesto all'ambasciatore Boris Bianchieri, presidente dell'ISPI, quali sono stati gli esiti del vertice. La mia impressione è che sia stata una visita importante e interessante. Ci sono delle scadenze prossime, la conferenza anzitutto di Londra sull'Afghanistan, che è certamente un grosso traguardo. Si tratta di riformulare, chiarire le strategie di fronte alle quali noi ci troviamo. Mi sembra che su questo punto ci sia stata una convergenza. Mi sembra che delle convergenze ci siano anche state per quel che riguarda l'Iran e di conseguenza per quel che riguarda gli approvvigionamenti energetici, perché è chiaro che l'energia è una delle componenti del gioco iraniano. Quindi sui punti centrali mi pare che ci sia stata una forte convergenza e quindi una visita estremamente utile. Ambasciatore, su Haiti invece l'Italia non è che forse ci ha fatto una gran figura, nel senso che Frattini si è dovuto dissociare a Bertolaso, Bertolaso ha fatto marcia indietro. Come sistema paese forse con l'alleato americano non è che ne siamo usciti proprio benissimo. Sono quegli incidenti così che capitano. Bertolaso è uno straordinario organizzatore, ma non è un diplomatico. Forse è proprio perché non è un diplomatico che è uno straordinario organizzatore, ma certamente le espressioni che lui ha usato sono infelici da ogni punto di vista e io sono anche sicuro non realistiche. Certo, era inopportuno dirlo, è chiaro che Hillary Clinton non poteva non reagire, sarebbe stato accettare una critica su un punto così importante anche politicamente per il presidente americano, non era verosimile. Prima di passare alla Francia, una notizia che è appena arrivata: D'Alema eletto all'unanimità presidente del COPASIR. Il COPASIR, lo ricordo, è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, cioè il comitato che dovrebbe decidere e vagliare sull'opera dei servizi di sicurezza, sull'opera dei servizi segreti. D'Alema sostituisce il dimissionario Rutelli. La notizia era già nell'aria, era già stata confermata da più parti. Pochi secondi fa la conferma. D'Alema, nuovo presidente del COPASIR. Andiamo alla Francia, che va verso il divieto dei burka nei luoghi pubblici. Che cosa è accaduto, Igor Fiatti? Sì, buongiorno da Parigi. La Francia va dunque verso il divieto del burka nei luoghi pubblici. Una commissione parlamentare ha infatti raccomandato che il velo islamico integrale venga vietato in tutte le scuole, gli ospedali, i trasporti pubblici e negli uffici statali. Il burka, stando alle conclusioni del rapporto presentato oggi, offende i valori nazionali della Francia. Ad ogni modo va detto che resta comunque aperta la questione della traduzione in legge di questa raccomandazione. Scusate, e il tutto potrebbe richiedere ancora del tempo. Così la legge andrà probabilmente in discussione dopo le elezioni regionali di marzo. Intanto però, stando ai sondaggi, la maggioranza della popolazione è favorevole al bando del burka. E con questo per ora è tutto. Linea Milano. 13:21 minuti e 15 secondi. Un altro attentato oggi a Baghdad causato da un'autobomba. L'ultimo bilancio parla di 18 morti e 80 feriti. Solo ieri 30 persone sono state uccise invece in un triplice attentato sempre a Baghdad, che aveva colpito 4 principali alberghi della capitale. E ci sono anche novità per quanto riguarda la presenza tedesca in Afghanistan, perché Angela Merkel ha confermato l'invio di 500 soldati supplementari, una riserva flessibile di altri 350 uomini, e questa sarà una proposta che la Germania porterà alla conferenza di Londra che si apre, lo ricordo, giovedì. L'autorità dell'energia ha presentato poco fa uno sportello di pronto intervento a tutela del consumatore. Che cos'è? In diretta Maria Chiara Grandis. Buongiorno, capita a tutti di chiedersi cosa fare per segnalare problemi nella bolletta dell'energia oppure del gas e anche voler sapere come funzionano i servizi di questo tipo. Ed è per questo, per dare risposte a queste domande, appunto che nasce lo sportello per il consumatore di energia elettrica e gas, iniziativa dell'autorità per l'energia elettrica insieme all'acquirente unico. Lo sportello ha sede a Roma e mette a disposizione un call center, il numero è 800 166 654, insieme ad esperti specializzati nel ricevere segnalazioni e reclami. Oltre allo sportello da oggi arriva anche l'Atlante dei diritti dei consumatori di energia, che riassume le norme in materia previste dall'autorità. Tutto questo perché la tutela dei consumatori è la missione più importante dell'autorità per l'energia, lo dice il presidente Alessandro Ortis, e i due strumenti, oltre che tutelare, informano così i cittadini che possono scegliere a questo punto in modo autonomo anche a quali operatori affidarsi. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandis. Ora per lo sport ci trasferiamo in Angola, dove si è definito il tabellone delle semifinaliste della Coppa d'Africa. Saranno Egitto, Algeria e Ghana, Nigeria. La sfida che ha infiammato il Maghreb appena due mesi fa ritorna in Angola. Egitto-Algeria sarà semifinale di Coppa d'Africa dopo essere già stato spareggio mondiale. A novembre a Khartoum, in Sudan, vinsero 1-0 gli algerini dopo che gli egiziani avevano ottenuto il diritto alla sfida senza appello con un contestato 2-0 al Cairo, con tanto di sassaiola degli ultra dei faraoni contro il pullman della squadra algerina. Che gli egiziani ora sognino la rivincita lo si è ben capito dal 3-1 con cui hanno eliminato ai supplementari il Camerun di Eto'o, che torna così subito a disposizione dell'Inter. Anche se i leoni indomabili, che chiudono in 10 per l'espulsione di Chediu, contestano e ha ragione il gol fantasma di Hassan che decide la partita. Solo i rigori invece rompono l'equilibrio tra una Nigeria cinica e uno Zambia sprecone. Dal dischetto super aquile infallibili, mentre lo Zambia rimpiange l'errore decisivo di Nirenda. In semifinale sarà Nigeria-Ghana, duello che già profuma di mondiale. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. Milano celebra Roy Lichtenstein, uno dei fondatori della pop art, con una mostra evento che raccoglie oltre 100 opere tra quadri e sculture. Meditation on Art, ovvero Meditazioni sull'arte, il titolo dell'esposizione aperta da oggi al pubblico della Triennale, che si conclude il 30 maggio per trasferirsi poi a Colonia. Il curatore Gianni Mercurio al microfono di Adriana Fracchia. Ricordo quando conobbi Lichtenstein nel 1988 a Roma, una frase che mi disse e che un po' ha ispirato alla fine questo progetto. Cioè lui disse, con un po' di amarezza anche, la gran parte del pubblico mi conosce per i fumetti e i puntini. In realtà io ho fatto molto altre cose e insomma questa gente evidentemente non ha un senso profondo, una grande curiosità per l'arte. Ed ecco che ho pensato di mostrare proprio questa attività ultradecennale che è stata incentrata soprattutto ad una rimeditazione sulla storia dell'arte del Novecento, cioè l'arte come percezione visiva. E quindi Lichtenstein si dedica a ridipingere opere di Picasso, di Mondrian, dei vari movimenti o generi come il paesaggio, la natura morta, anche il futurismo, desumendo queste immagini dalle riproduzioni di scarsa qualità che fanno sì che noi conosciamo la storia dell'arte, cioè quindi conosciamo la storia dell'arte attraverso dei cliché, il cliché di Picasso, il cliché di Mondrian. E Roy Lichtenstein, attraverso questa operazione di citazionismo, di riappropriazione, ridà dignità di opera d'arte a delle opere che invece sono state degenerate un po' attraverso una diffusione, che quindi hanno perso la loro aura. Alle 13, 26 minuti e 14 secondi vi saluta Daniele Biacchessi. Tra pochi minuti Italia in controluce, dove sentiremo le voci del Partito Democratico in Puglia e a Bologna, oltre ad altre pagine di cronaca nazionale. Questa trasmissione condotta da oggi da Alessio Maurizi. Le prossime notizie alle ore 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.